E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Il Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti gli innamorati. Sì, perché oggi parleremo di San Valentino. Ne parleremo in chiave un po' particolare. È evidente che questa trasmissione, Il Gastronauta, parla di cibo e quindi il riferimento è abbastanza scontato. Però vedremo anche di allargare un po' il raggio al cibo, al gusto. Vedremo anche di andare alle passioni, di andare anche all'amore, soprattutto appunto perché è San Valentino. Ma io ho l'impressione sempre di più che questa festa degli innamorati di San Valentino stia diventando, ahimè, una sagra gastronomica, perché ormai si leggono ovunque inviti a cene, a pranzi, a serate. Insomma, il cibo è sempre protagonista. Bene, lo sappiamo tutti che il cibo sicuramente è un mezzo molto importante che porta al talamo, porta al sesso. Si parla sempre di cibo afrodisiaco, ammesso che esista, ma di questo cominciamo subito a parlarne con un personaggio che è un'autorità in questo settore, ed è il professor Willy Pasini. Buongiorno, professore. Buondì. Professore, ma non ha l'impressione anche lei che questa festa degli innamorati ormai si stia trasformando in una sagra gastronomica e il cibo sia diventato molto più importante dell'amore? Dipende se San Valentino fa rima con cioccolatino o con un peperoncino, oppure come nei vecchi tempi con fiorellino. È più in contatto con cioccolatino o forse col peperoncino. Beh, si vedono sempre più questi pranzi, queste cene che appunto parlano di San Valentino a base di quei prodotti, di quei cibi che sono considerati a torto o a ragione, magari questo ne parleremo un secondo con lei, afrodisiaci: lo champagne, il caviale, il salmone, le ostriche. Ecco, c'è un rapporto vero tra diciamo questi cibi che sono considerati tali e diciamo il sesso? Dipende poi se il pasto è fatto prima, durante o dopo il sesso, perché lei mette prima il pasto, questo per ragioni sociali, però le persone erotiche mangiano durante il sesso. Con le mani magari? Con le mani, sì, come 9 settimane e mezzo, sì. Come tanti altri film di questo tipo. E poi invece le coppie deluse cibano dopo, ecco, soprattutto le donne. Quindi lei dice alla fine se tutto è stato un disastro, insomma ci si rifà col cibo. Esatto, sì, vanno a svuotare il frigorifero. Non è il cibo, è scegliere il locale, scegliere i cibi, ecco, questo magari è quello che mette insieme la coppia. Ecco, ogni tanto saltano fuori delle ricerche, sì. Succede spesso dal punto di vista medico di cose un po' strane. Ultimamente è uscito che la polenta è un cibo afrodisiaco, lei cosa ne pensa? Sì, è vero. È vero perché la polenta ha dentro ha poco triptofano, che è diciamo, il mediatore della depressione, e quindi c'è stata una ricerca coi topi che hanno fatto una dieta per 5 giorni di polenta, e questi topi sono diventati molto sensuali, diciamo, al punto che confondevano gli uomini e le donne. Quindi verrebbe una battutaccia, insomma, che polenta e osei, come dicono in Veneto, sarebbe il piatto ideale. Si dice polenta e rane. Polenta e rane. Sì, perché nelle rane, le rane mangiano le mosche, quelle che faceva Saad, eccetera, che faceva la cantaridina, no? Che sono proibite dalla legge, la cantaridina. E le rane mangiano queste mosche per natura, no? E quindi magari alcune di queste rane sono afrodisiache in questa maniera. Quindi polenta e rane, dopo diciamo lo spumante e il salmone o le ostriche. Ecco, le ostriche contengono dello zinco che può essere utile al sesso, diciamo. Bene, professore, lei ci ha dato una ricetta importante, quindi la annunciamo, perché le rane è stagione, sento che molti ristoranti propongono le rane, ma nessuno propone polenta e rane, quindi per i nostri radioascoltatori, per tutti i gastronauti in ascolto, credo che questo possa essere il piatto di San Valentino. La ringrazio, professore, grazie. Salve, arrivederci. Grazie, arrivederci, a presto. Bene, ora cominciamo a vedere cosa succede in giro per l'Italia di questo San Valentino, di iniziative intriganti, nuove, originali. Bene, ne parliamo col sindaco di Carpineti, Nilde Montemerli. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Signor sindaco, allora ci racconti un po' di questa iniziativa delle mongolfiere innamorate. Sì, questa è la nona edizione di questa manifestazione che avviene qui nell'Appennino Reggiano. Infatti ascoltavo prima il dottor Pasini, dicevo San Valentino fa rima anche con Appennino in questo caso, e quindi noi abbiamo per 10 giorni, da domani fino a domenica prossima 21, 30 mongolfiere che solcheranno i nostri cieli del nostro Appennino, qua dove si potrà ammirare davvero un bel panorama tra castelli di Matilde di Canossa, il Parco Nazionale Tosca Emiliano. Ecco, ma come direbbe un noto politico, ma che ci azzecca la mongolfiera con San Valentino? Beh, insomma, ci azzecca molto, siamo il settimo cielo, l'amore, tocco il cielo con un dito quando sono innamorata, insomma. Quindi si può andare in mongolfiera in due? In due, in mongolfiera, le coppie che arrivano, tante hanno già prenotato, vengono qua proprio per regalarsi una giornata diversa, regalarsi una giornata in cielo, no? Senta, ma c'è anche il paniere con la polenta e le rane, oppure no? Beh, noi abbiamo il parmigiano reggiano, che devo dire che delle vacche rosse tradizionalmente dicono avere le stesse caratteristiche della polenta, insomma. Avete le vacche rosse voi, se non erro? Sì, abbiamo anche le vacche rosse. Ecco, sì. Mi dica, quali altri prodotti avete lì da voi? Perché così magari chi viene e va in mongolfiera con l'innamorato o l'innamorata almeno ritorna a casa con la macchina piena di cibo. Certo, allora innanzitutto appunto il parmigiano reggiano di montagna, perché qua siamo davvero nella culla del parmigiano reggiano. Abbiamo il savourette, che è una confezione di una confettura di quasi una marmellata fatta con delle pere storiche, insomma, che si stanno perdendo, stiamo cercando di recuperare. Si chiama savourette, viene utilizzato sia coi bolliti ma anche per fare i tortellini di castagna. Abbiamo l'erbazzone con il riso, abbiamo un sacco di prodotti, l'aceto balsamico che viene fatto anche qua, non soltanto nel modenese, il pecorino di Succiso, che è un altro dei nostri prodotti, insomma. Quindi devo dire che paniere, un paniere interessante con la mongolfiera, è un paniere interessante. Ecco, ci sono ancora posti da prenotare oppure è tutto esaurito? No, assolutamente ci sono ancora posti. È evidente che domenica, che è il giorno di San Valentino, abbiamo anche la cena per San Valentino, altri fuochi d'artificio, insomma è meglio prenotare rapidamente perché stiamo esaurendo un po' i posti. Però per tutta la settimana fino a domenica prossima si potrà volare sia al mattino che al pomeriggio, e con 30 mongolfiere devo dire che bene, la possibilità è bene. Tanto. Allora via le mongolfiere innamorate, le mongolfiere per due, magari chissà cosa succede sulla mongolfiera poi, perché insomma si dura anche qualche ora, fra i cibi afrodisiaci, essere così lontani al cielo, e chissà, magari può succedere di tutto. Bene, continuiamo questo nostro viaggio su San Valentino, su andare a scoprire alcuni aspetti, e ora sentiamo un'esperta di marketing sensoriale, anzi un naso. Buongiorno a Maria Luisa Tonielli. Buongiorno, buongiorno a lei. Lei è un'esperta di odori. Bene, quanto conta l'odore, diciamo, tra due persone, tra due innamorati? Lei lo studia nel vino e anche in altre cose, però credo che l'odore sia importante anche, diciamo, dal punto di vista personale. Esattamente, è direi uno dei fattori primari, diciamo così, che l'attrazione passa e il piacere passa attraverso la via dell'olfatto, perché è direttamente il sistema olfattivo collegato con il cervello interno, con l'amigdala e l'ippocampo, che fanno parte del sistema limbico, quindi la parte più antica e non collegata o parzialmente, limitatamente in parte collegato con la parte razionale del cervello. Quindi è pura emozione quella che ci arriva dall'olfatto, e l'olfatto è un piacere o non piacere, cioè una cosa mi piace o non mi piace. Quindi l'istinto è istinto puro, l'olfatto. Abbiamo con noi Maria Luisa Tonielli, che è un naso, esperta di marketing sensoriali, e a lei chiedo, dal punto di vista dell'odore, del profumo, ci sono dei vini, dei cibi, dei prodotti che si possono considerare afrodisiaci? Diciamo così che per la normalmente vengono considerati dei cibi afrodisiaci, però ancora scientificamente non è provato nulla, nulla è certo che queste sostanze che normalmente noi consideriamo afrodisiaci diano effettivamente questa sensazione. Sicuro è che alcuni prodotti, proprio perché vanno a stimolare direttamente, come dicevo, la parte emotiva, il sistema limbico, e quindi arriva al centro del piacere, e ci possono creare delle gratificazioni, perché... Ecco. Prego, scusi. Prego, no, dica. Volevo chiederle, ma di solito è lo champagne quello che viene considerato, diciamo, quando si parla di amore, si parla di sesso, si parla così di coppie, e si parla sempre che lo champagne è quello che, diciamo, il vino che viene preferito. Ma c'è una ragione sull'odore, sul profumo, semplicemente perché era il più caro, era il culto, e quindi si offriva, diciamo, alla donna amata per far vedere, insomma, che c'era un sacrificio economico, quindi la si considerava importante? No, questo sicuramente può avere due valenze, una di questo tipo, e la seconda, effettivamente l'anidride carbonica crea comunque una sorta sulla papilla gustativa, qui in questo caso parliamo di gusto, di eccitazione, eccita in questo caso la papilla, e quindi ci fa provare piacere. Dal punto di vista olfattivo ci sono effettivamente certe connotazioni che sono, come ad esempio questa fortissima sensazione di formaggio, di sentore di lievito, che è legata a una sorta di piacere, diciamo così, piacere puzza, cioè ci sono certi odori che ci creano una sensazione fortissima, cioè ci eccitano quasi, proprio perché vanno ad eccitare e secernono alcune sostanze ormonali come la dopamina, che è l'ormone, diciamo così, del piacere. Bene, io ringrazio Maria Luisa Tonielli, grazie di questi così aspetti di cui lei ci ha parlato. Quindi cominciamo a comporre il menù ideale: polenta con le rane e champagne. Ma ora continuiamo, andiamo a sentire in mongolfiera, quindi siamo a questo punto. Ma ora andiamo da un ristoratore, andiamo da uno chef patron del ristorante Corte Brandelli, che tra l'altro è anche autore di un libro interessante, che sono Le ricette d'amore. Buongiorno a Lino Turrini. Buongiorno a lei, Davide. Lino, allora, cosa ha preparato per domani sera? Qual è il menù di San Valentino, visto che lei ha studiato a lungo i menù afrodisiaci, i cibi afrodisiaci, e quindi ha così messo a punto questo libro molto particolare? Sì, io ho fatto un menù proprio tratto dal libro. Posso elencarlo? Certo. Ah, sì. Allora, inizio con una crema di carciofi violetti con ostriche di Belon. Poi un riso al mandarino e aragosta, anche qui profumi, e poi un rombo affogato nel fumetto di gamberi con cardi alla bottarga di muggine. E poi finisco con un gelato ai frutti della passione e una torta gianduia calda. Senta, cioccolato, Lino. Sì, certo, Lino, e cosa costa come vini? Con i vini o senza vinile? No, dico, quali vini accosta questi piatti? I vini che accosto. Sì, sì. Un suo suggerimento o lascia libero? Io parto con uno champagne rosé. Sì. Poi continuo col riso al mandarino, sempre champagne rosé, perché mi sta bene. E poi un pinot grigio con il rombo. E poi finisco con un sauterne. Il gelato ai frutti della passione e la torta gianduia. Senta, questo menù è molto ricco. Non pensa che il menù, quando è ricco, insomma, poi col talamo ci sia qualche difficoltà? Come dice il professor Pasini, meglio dopo? Sì, sì, è vero. Sono d'accordo su questo. Cioè lei dice meglio mangiare dopo, insomma. Sì, o almeno si può iniziare subito col gelato e la torta e poi fare il resto. Senta, ma di questi piatti, diciamo, che lei ha messo a punto, appunto, che sono nel suo libro Ricette d'amore, volevo chiederle, ce n'è uno importante? Ci faccia una confidenza. Lei queste ricette le ha collaudate poi sul privato, oppure non le ha mai collaudate? Mi addormento spesso quando finisco di lavorare in cucina, dormo spesso, non ho queste, però insomma io Intanto io ho suddiviso le cose, insomma, non penso che l'afrodisico sia un insieme di cose, no? Certo. Io li ho chiamati, gli ingredienti sono stimolanti, che possono essere eccitanti, energetici o sensoriali. Penso anche che il sensoriale sia quello forse che ha, ma che sia più vicino all'afrodisiaco, ecco. Bene, io vorrei ricordare che comunque dalle ricerche, poi ce l'ha confermato anche il professor Willy Pasini, quello che viene considerato il cibo più afrodisiaco per i suoi contenuti è la polenta. Cioè, una cosa che è sconcertante può sembrare, perché insomma chi l'avrebbe mai pensato? Lei cosa ne dice, Turina? L'ha mai sperimentata in cucina la polenta? Ma io sono un mangiatore di polenta, però io non ho questo effetto. Ma penso che sia la predisposizione, insomma, okay. Ognuno ha, ogni individuo ha una predisposizione personale per queste cose, insomma. Bene, poi, Lino, l'età conta molto, l'età. Certo. Lino, io la ringrazio Lino, che è chef patron del ristorante Corte Brandelli, autore tra l'altro di un bellissimo libro che io ho avuto l'occasione così anche di presentare un paio di anni fa, che si chiama Ricette d'amore, ma veramente dentro ci sono delle ricette che si possono rifare anche al di là di San Valentino, al di là anche di serate molto particolari. Bene, continuiamo questo nostro giro. Ora abbiamo una notissima conduttrice televisiva, Camilla. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Camilla, lei cosa ne pensa dei cibi afrodisiaci? Ma cosa devo pensare? Da un lato ditemi quali sono, nel senso che se sento che è la polenta un po' rimango basita. Dall'altro c'è chi dice che in realtà non esistono, che è una bufala, che l'afrodisiaco sta nella bocca di chi mangia. Di solito la bellezza sta negli occhi di chi guarda, no? O la volgarità, a seconda. E quindi se è vero che è così, anche un pezzo di pane potrebbe essere afrodisiaco. Dipende da chi lo mangia, come lo mangia e soprattutto con chi lo mangia. Sono completamente d'accordo con lei, specialmente mangiarlo con le mani, penso. Esatto, beh, la mano da sempre, le dita, il leccarsi le dita, il fatto poi di sentire proprio il tatto, che è un senso che noi dell'Occidente abbiamo un po' perso, no? Anche l'olfatto, perché ci ricopriamo di questi profumi allucinanti a base di alcol che tolgono in realtà poi quello che è il primo vero fattore di attrazione, che è l'olfatto tra esseri umani, e il secondo è il tatto, e se ci si tocca sempre di meno, si toccano le cose sempre di meno, ormai si sterilizzano le mani, e per cui diventa una società un pochino asettica, per cui parlare di afrodisiaco secondo me non può essere un qualcosa all'esterno da noi, deve essere un'attitudine, un atteggiamento, un'energia afrodisiaca. Beh, io sono convinto, ma questa convinzione mi arriva da cose concrete, che il tatto sta tornando in maniera notevolissima. Ci sono molti chef, tra l'altro importanti, a cominciare da Massimiliano Laimo, che diciamo la cucina, così, la cucina del futuro, le ricette la vedono molto con l'uso delle mani, perché è uno dei sensi che abbiamo completamente dimenticato a tavola, e che invece è stato importante, perché già dall'infanzia è molto importante, se uno ci pensa bene. Ma volevo chiederle questo: io ho l'impressione che questa festa di San Valentino sia diventata una sagra gastronomica ormai, cioè l'amore scompare, si parla solamente di cene, si parla di occasioni, di serate. Lei ha questa impressione? Sì, ma ce l'ho da tanto anno, ma voglio dire, ce l'ho così per tutte le feste, quelle consacrate, quelle istituzionali, cioè il Natale, cosa c'entra il Natale con la nascita, con il fatto, non c'entra più niente, è il regalo, è l'ultimo iPhone, è quella roba lì, cioè il Natale è la gara a chi ce l'ha più grande il regalo, o più gustoso, e la stessa cosa è per San Valentino, il San Valentino non c'entra più niente, come... Non è più una data dove due innamorati stanno e celebrano questo amore che c'è, è diventata la data per cui l'impiegata o comunque la ragazza dice: sai quante rose ha mandato a me? 24, no, a me 28, cioè è la gara di nuovo tra le donne, perché l'uomo, tra l'altro questo stereotipo per cui è l'uomo che deve assolutamente portare le rose, il cioccolatino e portarla fuori a cena, madonna vi prego, uomini in ascolto, non fatelo, trovate una cosa, o non fate niente, fate finta che Valentino non esiste, San Valentino, che secondo me fate più bella figura, io non l'ho mai celebrato e sono assolutamente contro, ma se proprio dovete, che magari la vostra donna ci tiene ed è tradizionalista, perlomeno sorprendetela con una cosa originale, non lo so, cioè invitatela ad andare a raccogliere castagne, non so, a febbraio non so cosa si fa, a raccogliere i primi, a fare giardinaggio insieme, cioè trovatevi delle cose nuove, cioè le cene e le rose e i cioccolatini sono da bandire il 14 di febbraio. Guardi, io man mano durante questa trasmissione annuncerò delle cose molto originali, una già sulla mongolfiera che ci è già stata raccontata, un'altra in un acquario e poi ancora tante iniziative che sono particolari. Però devo dire una cosa, che l'altra sera sono rimasto molto colpito in televisione, perché un telegiornale ho visto 100 coppie che di fronte alla, diciamo, al simulacro di San Valentino si giuravano eterno amore perché si sarebbero sposate di lì a pochi mesi. Mi ha abbastanza colpito questo, devo dire, mi ha abbastanza colpito, perché pensavo che non esistessero più queste cose, quindi magari sono ridiventato un po' ottimista. Speriamo. Io spero solo che questa data abbia un senso al di là del consumismo, perché altrimenti siamo tutti un po'... Cioè, voglio dire, non è colpa di nessun altro se non nostra, se tutte queste feste comandate hanno perso il loro significato intrinseco e vero e puro e filosofico, è colpa nostra, di tutti noi, cioè la società è composta da individui. Bene, allora, viva il San Valentino non celebrato, ma celebrato nella propria intimità, siamo d'accordo così? Assolutamente. Grazie, la ringrazio molto. Grazie, a presto. Il piatto che potrebbe essere il piatto di San Valentino, così suggerito da Willy Pasini come il più afrodisiaco, ma anche di stagione, polenta e rane. Polenta e rane, abbiamo detto, magari in mongolfiera. Ma ora vediamo se questo piatto potremmo proporlo anche in un castello. Andiamo in provincia di Piacenza, che è notissima per una serie di castelli bellissimi, ognuno con attività completamente differenziate. Andiamo al castello di Gropparello, andiamo da Rita Gibelli, che è la proprietaria di questo castello, ma sempre dinamica, pronta a così lanciare nuove iniziative. Buongiorno signora. Buongiorno signor Paolini, come sta? Bene, lei? Allora, cosa ha preparato in questo castello, che io vorrei ricordare, chi fosse in ascolto e ha dei bambini, che in questo castello si fanno delle iniziative molto particolari, ovviamente non per San Valentino, per i bambini, si raccontano delle favole vere, quindi delle favole vere nel senso che ci sono protagonisti veri, non favole vere, perché sarebbe un controsenso. Bene, signora Gibelli, allora, per San Valentino cosa prepara? Noi abbiamo preparato una serie di banchetti per tutti i gusti, li abbiamo chiamati, perché cominciamo il sabato sera e finiamo la domenica sera. Ah, quindi il San Valentino prolungato, insomma. San Valentino prolungato. Tra l'altro, la domenica a mezzogiorno abbiamo anche delle famiglie con bambini, perché si capisce che l'amore si allarga a tutta la famiglia. La cosa, diciamo, che vince da noi è il prodotto tipico, quindi salumi piacentini sicuramente, coppa, pancetta e salame. Abbiamo saltato la mariola perché andava cotta, insomma, non ci girava. Troppo lunga, insomma, la gente per San Valentino vuole scappare poi, insomma, far finire la serata, è così. Esatto. E abbiamo utilizzato, per esempio, un secondo che mi piace tantissimo, che è lo stinco di maiale al ribes. Ah. Quindi non le rane, ma il maiale, che comunque qua è sovrano. E come dolce finale cosa? Dolce abbiamo fatto una fantasia di dolci piacentini, quindi abbiamo messo la crostata di ricotta, perché noi abbiamo un caseificio qui da noi che fa una ricotta di vacca strepitosa, poi la crostata di cotognata, perché noi produciamo mele cotogne, quindi prepariamo la cotognata sia da tagliare a fette che la marmellata per le crostate. Poi abbiamo preparato la classica torta di mandorle piacentine e la torta sabbiosa. Ecco, volevo chiederle, la torta sabbiosa col mascarpone, che credo che sia una mappazza, o no? No, senza la mascarpone. Torta piacentina, no, sì, è una sbisolona che si sfarina in bocca praticamente. No, non ha assolutamente, ecco, mascarpone. Ecco, ma c'è qualche spettacolo particolare, c'è qualcosa di particolare durante questa serata di San Valentino? Siamo la corte d'amore, quindi è un banchetto in costume dove l'animazione medievale coinvolgerà gli ospiti in galanterie d'altri tempi, quindi ci saranno un cavaliere e una dama che inizieranno, diciamo, le coppie a quelle che sono le galanterie che vengono dai secoli passati, e ci sarà la possibilità per tutti di sperimentare una corte d'amore ormai desueta. Bene, ecco, almeno qualcosa di romantico a San Valentino è rimasto. La ringrazio Rita Gibelli del castello di Gropparello in provincia di Piacenza. Bene, ora abbiamo con noi la dottoressa Simonelli, una sessuologa della Clinica Università di Roma. Buongiorno dottoressa Simonelli. Buongiorno a tutti. Allora, per San Valentino, qui tutti si parla di afrodisiaco, tutti cercano cene afrodisiache, ma insomma, questo afrodisiaco, cioè questi cibi afrodisiaci, sono nella testa delle persone, purtroppo, è così, vero? E non c'è niente. Purtroppo, meno male, nel senso che l'atmosfera e ciò che anche alcuni cibi ricordano o significano per quello o quell'altra persona o per una cultura, perché poi c'è anche una vastissima letteratura che parla degli afrodisiaci nel tempo, no? Nei secoli, diciamo, proprio dall'antichità. Quindi questo bisogno di sognare che qualche alimento ci possa mettere in condizioni ottimali per essere romantici e appassionati, beh, è vecchia storia, no? Certo, guardi, io ho scritto un libro che si chiama Le ricette della mia memoria e proprio sono andato a riscoprire un po' tante cose dalla mia infanzia in poi, però devo dire che quello che più rimane della memoria è la nonna, sono certi piatti da bambino. Diciamo che di piatti afrodisiaci nella mia testa, ricostruendo questo libro, non ne ho trovati. Anzi, quelli che magari sono serviti così a serate particolari erano tutto meno che champagne, caviale, ostriche. Cioè, di questi cibi non ce n'era uno. E che cosa era invece? Ma erano molte cose, magari erano, che ne so, potevano essere anche una pasta e fagioli, per esempio, ma in un momento particolare, in una serata particolare, in un luogo particolare. Cioè, è l'atmosfera che fa scatenare nella nostra testa, prima ancora che in tutto il resto, una disponibilità, apre delle porte alla comunicazione, ci fa sognare. Questo è molto importante. Poi credo che, come dice lei, appunto ci siano dei ricordi personali, dei profumi, anche lì insomma c'è una letteratura, no? Certo, ma io, ecco, questo che volevo arrivare un po' al punto con lei, che quando arriva San Valentino si leggono ovunque queste ricette, appunto, che contengono i cosiddetti cibi afrodisiaci. Quasi ci sia, come posso dire, una spinta generale a mangiare quelle cose perché diventino afrodisiache. Io credo che molta gente si convinca di questo. Lei cosa ne pensa? Ma penso questo, che intanto San Valentino, se non sbaglio, è una festa abbastanza recente, insomma, quindi è un'invenzione commerciale anche, no? Sicuramente commerciale. Di denaro. Mi viene in mente che se due amici, un gruppo di amici vuole andare a cena fuori il giorno di San Valentino, è difficile che trovi vede? Tavolo libero, per esempio. Questa, no? Questa è la conferma che ormai, cioè, è diventato, come posso dire, un mito dietro al quale tutti vanno, nel senso che si sentono quasi obbligati poi a scegliere quei cibi che così sono descritti, appunto, come portatori di euforia. E questo è il punto. Credo che sia un po', come posso dire, diventato un luogo comune ormai. Sì, sì, lo è, nel senso che mettiamo una coppia, non festeggi o lui si scordi, magari perché gli uomini si scordano un pochino più facilmente, le donne sono, come dire, un pochino più fiscali, no? su certi riti, e dunque questo viene malinterpretato come una carenza di interesse, di affetto, quando magari gli altri 364 giorni uno ha comunque una presenza e un'attenzione, no? E quindi, voglio dire, San Valentino potrebbe essere anche un po' tutti i giorni. Certo, ormai condividiamo questo appuntamento e quindi abbiamo tutti qualche aspettativa, no? Di avere un piccolo pensiero, una rosa, no? Certo. Un gesto particolare. Sui cibi, naturalmente, poi devono essere, insomma, in genere preziosi e qualcosa che non si consuma normalmente, no? Che quindi possa essere un buon schermo sul quale proiettare quello che si diceva prima, quindi quella capacità poi di creare un'atmosfera, di mandare comunicazione a sé e all'altro, di essere in un momento del tutto speciale, no? Allora, pensiamo allo champagne, allo spumante, quello che vogliamo, insomma, sembra che il brindisi fatto così sia più significativo, no? Rispetto a un buon Chianti, si potrebbe discutere però di questo, certo. Perché pare che il vino rosso invece possa aiutare. È vero. Bene, io la ringrazio la dottoressa Simonelli, grazie, a presto. A voi, buon San Valentino. Continuiamo questo viaggio, ora andiamo da una chef che è responsabile di fuso orari, cibi e viaggi. Buongiorno a Jessica Lupelli. Buongiorno. Allora, cosa ci offre per San Valentino? Ma noi ci siamo basati su un menù persiano ispirato a Mille Una Notte, e sarà un menù da mangiare con le mani, quindi tutto particolare. Fantastico. i nostri clienti avranno la possibilità dopo di lavarsi le mani in acqua al bergamotto e petali di rose, quindi una cosa molto romantica. Ecco, ma ci racconti di qualche piatto allora? Qualche piatto saranno una minestra di yogurt e verdure, molto pepata, hanno questi sapori molto forti persiani, soprattutto in Iran. Una tortina di uova ed erbe aromatiche, fresche, quindi molto profumata. Ci sarà una mela farcita di vitello, dei fagioli con le prugne, tutto accompagnato con del riso iraniano, che è un riso bianco a base di patate e abbondante burro. E come dolce ci saranno delle frittelle con zucchero e miele, una pasta di mandorle. Senta, ma come mai questa ispirazione persiana? Sei ispirata a qualche libro? Sei sì, ispirata al Kama Sutra, no? Ecco. Ci sono infatti alcune aneddoti, sono alcune frasi parlando proprio di questo libro. Ecco un fax, abbiamo sentito un fax, cos'è arrivata una prenotazione, no? Sì, può essere. No, mi dica, quindi sei ispirata al libro Mille e una notte. Stava dicendo che ci sono alcune frasi particolari nel libro? Sì, potrei leggergliene uno, ad esempio. Prego, prego, me la legga. Così Alaeddin uscì dal tribunale e comperò tutto quanto occorreva per la cena. Poi tornò dalla moglie e le raccontò quello che era successo. Mangiarono e bevvero e fecero l'amore. E quando furono sazi dell'uno e dell'altro, Aladdin chiese a Zubaydah di fargli sentire un po' di musica. Bene, sentire Aladdin con diciamo il suono, il fischio del fax, non è stato molto romantico, però sicuramente lo sarà questa cena tutta persiana, mangiata con le mani. Ecco, questo, come dicevo prima, sicuramente è un fatto molto molto intrigante che sempre più sta prendendo piede. Bene, io ringrazio Jessica Lupelli, continuo ad augurare a tutti buona festa, a tutti gli innamorati, ma continuiamo questo viaggio per capire appunto questa festa, per capire le manifestazioni che ci sono, per capire appunto come mai il cibo è diventato protagonista unico, si direbbe, facendo passare in secondo piano l'amore. Ma ora ne parliamo, andiamo a Verona da Loris Danielli, che è amministratore delegato turismo SRL della provincia di Verona. Buongiorno Danielli. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Bene, cosa succede a Verona? Viene trasformata nella città dell'amore? C'è lo già è. La città dell'amore, certo. Solamente si veste di festa per questi due giorni, oggi e domani. C'è questo grande cuore nella Piazza dei Signori, che si può vedere anche dall'alto, dalla Torre dei Lamberti, dove attorno a questo cuore ci sono tante bancarelle con i tanti prodotti tipici del nostro territorio. La possibilità di mangiare in tutti i ristoranti della città con due cuori a tavole, c'è un menù a tema e c'è anche la possibilità di partecipare a questo concorso e di vincere dei premi. Devo dire che lei dà ragione un po' alla mia idea, che ormai San Valentino è diventata una sagra gastronomica più che altro, insomma l'amore che viene sbandierato per vendere altro, o mi sbaglio? No, siamo nel filone del turismo enogastronomico, ci ha pensato Shakespeare a far diventare un po', creando la leggenda appunto di Giulietta Romeo, e noi con la città abbiamo fatto questo connubio anche di promuovere il territorio attraverso i tanti prodotti tipici che abbiamo appunto qui a Verona. Senta, ma Giulietta Romeo? Ci sono, addirittura ci saranno anche lungo il centro storico a distribuire cioccolatini a forma di cuore. Bene, io la ringrazio, grazie, e quindi alla città dell'amore appunto a Verona, beh, non poteva essere altrimenti visto il passato. Continuiamo a parlare appunto di San Valentino. Ora abbiamo con noi un grande esperto di marketing, addirittura di marketing alimentare in particolare, e Luca Vercelloni. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Luca, ma a me pare che insomma ormai esista il marketing dell'amore qui, perché mi sembra che questa festa di San Valentino sia diventata veramente una sagra gastronomica. Tu cosa ne pensi? Ma effettivamente non posso darti torto, anche se ovviamente ci sono dei prodotti che hanno tutte le carte in regola per essere, come dire, inseriti in questa festività. A mio modo di vedere ce ne sono solo due, poi gli altri possiamo discuterne. Sono lo champagne e i baci perugine. Lo champagne perché è il vino dell'amore da sempre, e quindi in una festività comandata che è dedicata a questo sentimento, al festeggiamento di un connubio d'amore, sicuramente è il vino che ha la, come dire, nel suo DNA questa missione. I Baci Perugina perché sono, da quando li hanno reinventati come cioccolatino romantico, perché inizialmente addirittura si chiamavano, non so se era, persone lo sanno, si chiamavano cazzotti, quindi non è che avesse molto a che fare con un sentimento amoroso. Da quando poi genialmente la Perugina li ha reinventati come baci, beh, sicuramente questo prodotto è diventato un must per veicolare un messaggio d'affetto, d'amore, eccetera, eccetera. È chiaro che trova in San Valentino la sua, il suo ubicon system dal punto di vista proprio ideologico e sentimentale. Ecco, diciamo anche che sempre di più sta prendendo piede la festa dei single, perché ormai i single diventeranno un numero superiore sicuramente, e quindi diciamo che il futuro, lo scontro, se vogliamo, dal punto di vista commerciale sarà appunto nel creare la festa dei single, e quindi con prodotti ad hoc. Tu quali prodotti vedi per una festa dei single? Ma visto che mangiare e bere è sicuramente un'attività sociale, corale, insomma qualcosa che è triste fare da soli, faccio un po' fatica ad individuare qualche prodotto. Sicuramente mi vengono in mente tutti i prodotti consolatori, come dire, come antidepressivi naturali, quindi a parte i baci, gli altri cioccolatini sicuramente, piuttosto che vari liquori, distillati, cicchetti che possono aiutarci a tirarci su, ma nel momento in cui un prodotto di questi diventasse veramente ufficialmente il prodotto da single, penso che perderebbe molti punti, certo, agli occhi del pubblico. Grazie a Luca Vercelloni. Ebbene, chiudiamo questo giro andando all'Acquario di Genova. Sì, lo ripeto, l'Acquario di Genova, perché ora ci facciamo spiegare esattamente come si può festeggiare San Valentino nell'Acquario di Genova. Buongiorno a Greta Botto. E buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, ci spiega cosa succede all'Acquario di Genova per San Valentino? Allora sì, praticamente l'Acquario di Genova offre la possibilità di un aperitivo per gli innamorati all'interno della Sala dei Moli Antichi, seguita da una visita appunto all'Acquario di Genova e da una cena molto particolare, che è una cena gourmet immersi in un'atmosfera praticamente degli abissi, perché gli innamorati potranno mangiare di fronte alla vasca degli squali. Ah, quindi un po', cioè, diciamo che è un po' cruenta, perché gli squali sono un po' cruenti, quindi magari... No, vabbè, però sarà tutta una cosa molto di atmosfera, cioè una cosa un po' surreale, dove gli innamorati potranno comunque gustare una cena molto buona a base di pesce, quindi di fronte agli squali, che però insomma non sono minacciosi. No, beh sì, però pensare di assistere così a uno spettacolo degli squali, magari credo che sia un posto adatto per gli innamorati che sono arrabbiati tra di loro, per cui vedendo questo assalto magari probabilmente poi la smettono di litigare. Comunque è un'idea molto importante. È la prima volta che lo fate questa cena? Sì, è la prima volta che l'Acquario lo fa. Comunque per noi è inserito in un pacchetto praticamente che la nostra struttura offre, che consiste praticamente in un soggiorno di due notti alla Badia San Giorgio, che è la nostra struttura, quindi nelle nostre camere più romantiche, dove gli innamorati saranno accolti con delle particolari attenzioni, e poi ci sarà appunto questa sera di San Valentino che sarà trascorsa all'Acquario di Genova. Però abbiamo anche un'alternativa nella nostra struttura, quindi per chi non è tanto coraggioso da mangiare insieme agli squali, bene, abbiamo un'altra offerta. La ringrazio Greta Botto. Abbiamo finito questo viaggio tra le cose più strane, allora in mongolfiera, tra gli squali, in un castello, insomma ce n'è per tutti i gusti. Però io voglio lanciare il nostro piatto di San Valentino, perché abbiamo visto che insomma la scelta va sulla polenta con le rane, chi l'avrebbe mai pensato? Piatto afrodisiaco al 100%, e come così ha aggiunto la sessuologa Simonelli, con vino rosso, perché sono una combinazione sicuramente che è scoppiettante. Quindi chi ci volesse seguire, bene, poi alla prossima puntata ci farete sapere com'è finita e se veramente ha funzionato o non funzionato. Comunque sia, buon San Valentino a tutti gli innamorati e magari mangiate poco, date retta. Questo credo che sia il consiglio. Non fatelo, non trasformatelo in una sagra gastronomica, bensì in una serata intima, magari, come diceva Camilla, con un pezzo di pane, magari un pezzo di pane e un bicchiere di vino. Bene, abbiamo finito questo giro degli innamorati. Io vi do appuntamento domani alle 12:15 con il Wine Bar del Gastronauta e poi ogni giorno con la pillola delle 11:05 e delle 23:05. Il vostro Gastronauta vi saluta e vi augura un buon weekend.